9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon lunedì 11 gennaio. Oggi ci occupiamo, ad anni di distanza dalla sua morte, ma di fronte alle proposte che alcuni esponenti politici, il sindaco di Milano, altri, hanno fatto di procedere a un ulteriore passo per riabilitarne la memoria, ci occupiamo di Bettino Craxi, perché il giudizio sulla parabola del leader dell'autonomismo socialista, Bettino Craxi, il giudizio su ciò che ha fatto come statista, su ciò che ha fatto imprimendo alla politica italiana in anni difficili, dalla metà degli anni 70, quando tutto sembrava indirizzato verso il prevalere della DC e del PC e del loro accordo, ribaltando quello schema, poi tornando a un'alleanza con la Democrazia Cristiana caratterizzata però dalla forte, crescente richiesta socialista, gli anni della presidenza del Consiglio, gli anni delle polemiche e del protagonismo internazionale, via via fino alla caduta del muro, al dilemma su cosa avrebbe rappresentato sicuramente per la famiglia comunista ma anche per la famiglia socialista, e poi Tangentopoli, Mani Pulite, il travolgimento della somma del giudizio dei pubblici ministeri da una parte e della pressione mediatica giudiziaria, la scelta della Tunisia, la morte. Di fronte a questo l'Italia oggi non è ancora capace di un giudizio politico convergente e sereno. Si è visto ancora come sabato a Milano, Piazza Cordusio, alcune migliaia di convocati da alcune associazioni come qui Milano Libera e così via, di fronte a interventi come quello di Antonio Di Pietro, siano prodotti in giudizi nei confronti di Bettino Craxi, trattandolo come un Lucifero, leggo testualmente, ma no, quello che non ci interessa oggi è fare polemiche. Certo, noi dobbiamo partire dal presupposto che anche il sondaggio di Mannheimer su Corriere della Sera ieri ha dimostrato che gli italiani restano molto divisi su questi, ma vogliamo fare un passo avanti per un giudizio il più possibile sereno, oggettivo, su ciò che Craxi è stato come politico. Io non sono dell'idea, potrei raccontare molto, sono stato portavoce nazionale di un partito che era impegnato contro Bettino Craxi nell'ambito di una maggioranza di governo, poi ho molto rivisto il mio giudizio, non lo nascondo perché bisogna sempre dichiarare il proprio punto di vista, e non sono tra quelli che ritengono che sia opportuno ricordarlo come un bandito morto contumace. Ho molto modificato il mio giudizio vedendo da una prospettiva diversa le vicende della politica italiana, che mi vedevano in piccolo tra gli attori contro Bettino Craxi. Comunque partiamo, prima di presentare i nostri ospiti di oggi, da parole di Bettino Craxi. Sono le parole pronunciate il giorno della fiducia al governo Amato, quindi eravamo nel luglio del 92, c'era un socialista quindi a cui veniva dato l'incarico di guidare il governo, ma non era Bettino Craxi, non era Bettino Craxi proprio perché Mani Pulite era lì per fare le prime vittime mediatiche con gli avvisi di garanzia, e quindi la storia d'Italia prese da quel momento in poi un altro indirizzo che avrebbe portato poi ai governi tecnici e così via. E in quell'occasione Bettino Craxi ricordò il discorso che aveva pronunciato poche settimane prima, sempre in quell'aula parlamentare e sempre rimanendo senza, ecco, sentiamo le sue parole. E tuttavia, d'altra parte, ciò che bisogna dire, che tutti sanno del resto, è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. I partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medi o piccoli, giornali, attività propagandistiche, promozionali ed associative, e con essi molte e varie strutture politiche operative, hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale. Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale. Non credo che ci sia nessuno, dicevo allora, in quest'aula, responsabile politico di organizzazioni importanti, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro. Ecco, La mia opinione è che quando Bettino Craxi si alzò, io all'epoca ero in tribuna perché il segretario del partito insieme al quale svolgevo la mia opera quotidiana, il Partito Repubblicano, era naturalmente seduto in quell'aula. La mia opinione era che quel giorno i segretari dei partiti avrebbero dovuto alzarsi e dire che Bettino Craxi stava dicendo la verità. Anni prima un altro segretario del partito, quello del Partito Repubblicano, Ugo La Malfa, di cui gli italiani servono una memoria diversa, ma Ugo La Malfa in occasione simile, in occasione dello scandalo dei petroli nei primi anni 70, si alzò e disse la stessa cosa. E all'epoca si ebbe poi la prima riforma del finanziamento pubblico dei partiti. Invece non avvenne. Bettino Craxi si alzò, pronunciò quei discorsi, rimase sostanzialmente solo di fronte a questo, perché prevalse il calcolo politico che Bettino Craxi e il suo partito da solo, poi si capì che non solo il suo partito da solo, ma insomma il pentapartito, sarebbe stato travolto da quelle inchieste. E il conto politico fu che quindi bisognava dire che non era così, che non c'era un problema di vasta illegalità del finanziamento, che non c'era un problema di condivisione di schemi politici che derivavano dall'Italia della guerra fredda, dal fatto che l'Italia era un confine di sicurezza, dal fatto che c'era chi prendeva i soldi da una parte e chi dall'altra, e chi poi negli anni, questo è vero, aveva accresciuto in maniera sistematica e molto grave anche la richiesta di finanziamenti aggiuntivi che venivano dalla parte pubblica dell'economia, che dove i partiti contavano molto. No, ma tutto questo si fece finta che non fosse così, che ci fosse un'escrescenza improvvisa per cui un capoladrone, un capobandito avesse organizzato un racket e che di quello dovesse pagare da solo lui e chi altri lo avesse fatto, come se non fosse stata una caratteristica di fondo della politica italiana. Fine del mio giudizio, lo dico solo da testimone. La parabola di quella morte di Bettino Craxi in Tunisia è una parabola che rimane senza risposta condivisa, perché è il problema della fine della prima repubblica, il problema dell'anomalia della seconda, che rimane attualmente ancora privo di risposta e per questo spacca gli italiani. Gli ospiti con cui iniziamo in questa prima parte della trasmissione ad approfondire il senso di questo ricordo che tenta di comporre un giudizio equanime su Bettino Craxi, controcorrente. Quindi il mio giudizio equanime è quello che va controcorrente, che si rifiuta di dire è un bandito, lo dico subito, lo so bene che mi beccherò opinioni avverse, sono già cominciate le mail contrarie, rassegnatevi. Allora, prima parte della trasmissione con Luca Iosi. Buongiorno Luca. Buongiorno. Dirigente giovane socialista negli anni di Bettino Craxi e dirigente che non molla Bettino Craxi di fronte al crescere delle polemiche e di fronte alla solitudine. E poi Emanuele Macaluso. Buongiorno Macaluso. Buongiorno. Emanuele Macaluso è una persona di straordinaria importanza nella storia del riformismo del Partito Comunista Italiano, che negli anni in cui Bettino era segretario si batte politicamente, coerentemente a quello che i riformisti rappresentavano nel PC, insieme a personalità come Giorgio Napolitano, che oggi è il capo dello Stato, per avere un rapporto il più possibile stretto, sinergico, e che era volto ancora poco prima che Tangentopoli esplodesse al tentativo serio, molto serio, che è stato a un millimetro dall'essere realizzato, di una alternativa in Italia ai governi di pentapartito guidati dalla Democrazia Cristiana, un'alternativa di sinistra in cui il Partito Socialista e il Partito Comunista potessero tornare insieme in una prospettiva che sanava la vecchia rottura degli anni tra il 48 e il 56. Comincio da Emanuele Macaluso. Macaluso, cosa vuol dire per lei, ad anni di distanza, che ancora oggi non si riesca a comporsi in un giudizio intorno a Bettino Craxi? Ma io credo che una delle ragioni, una non la sola, una delle ragioni riguarda il modo come questa cosiddetta transizione si è sviluppata, cioè nel senso che c'è stata poi una situazione politica in cui appunto c'è stato poi Berlusconi, l'anti-Berlusconi, eccetera eccetera, si è riprodotta in maniera esasperata e diversa, ma anche con una difficoltà oggettiva proprio rispetto all'esigenza di fare dei ragionamenti politici che abbiano un riferimento con la verità e con la realtà. Un altro motivo, che io lo trovo anche contingente in questi giorni, diciamo così, nel senso che noi abbiamo due poli. Un polo è quello che lei ha giustamente detto, che riguarda la, il modo come i vari Di Pietro e tutta quella, quel gruppo sta reagendo in maniera demagogica alla questione posta non solo a Milano, ma posta, diciamo così, più generalmente oggi nel mondo politico, la questione del decennale e della morte di Craxi. La seconda, l'altro polo, è che c'è una parte, diciamo così, degli amici di Craxi, i quali rifiutano anche loro un ragionamento politico, ne fanno solo un eroe dei due mondi, solo un perseguitato, non perché non ci sia anche questo aspetto, e rifiutano invece di guardare quali sono stati anche gli errori di Craxi. Perché se non si guarda complessivamente questa storia, se non si fa un'analisi oggettiva e rigorosa di questa via, non ne usciamo, perché altrimenti tutta la gente, come questa trasmissione vuole fare, perché la premessa sua è stata giustamente fare un'analisi serena, noi non ne usciamo più. Questa è secondo me la ragione. La ragione sono lo stato della situazione politica in questi 15 anni che non ha, che ha impedito, diciamo così, un'analisi che cosa è stata non solo Craxi ma la prima Repubblica, e la seconda è questo modo di ragionare. Quando, ma Caruso, quando dice a questo proposito il secondo aspetto del suo ragionamento, il secondo ostacolo, quando dice negli amici di Bettino Craxi ancora oggi c'è chi rifiuta di esaminare gli errori, per capire meglio, per esempio? Beh, io, la trasmissione che ho visto della figlia di Craxi, di Stefania, dove non, io capisco che è sbagliato forse fare la trasmissione a una figlia, perché la figlia che cosa vuole che faccia? Volevano fare una trasmissione l'annunziata con, allora piglia uno che è stato tra gli amici, i collaboratori più stretti di Craxi eccetera, da fare ragione. Io capisco che poi con la figlia è difficile, ma la figlia ha fatto dei ragionamenti poi politici, dei ragionamenti politici in cui appunto non ha mai pensato che Craxi ha potuto fare degli errori, e ha addirittura inquadrato la vicenda di Craxi in continuo con quella di Berlusconi, facendo un torto secondo me alla storia socialista di Craxi, perché per me resta uno dei leader del socialismo italiano ed europeo. Quindi io penso che se non si esce da questa logica e non si affronta appunto con un esame critico il ruolo che Craxi ha avuto, non solo, e questo io voglio sottolinearlo, poi nella discussione vedremo se verrà fuori, non solo come leader del Partito Socialista, ma soprattutto, secondo me, come Presidente del Consiglio di quel governo, e il ruolo che quel governo, io lo dico avendo fatto l'opposizione a quel governo negli anni di cui Craxi fu Presidente del Consiglio, io sono stato direttore dell'Unità. Dell'Unità, certo. Quindi ho fatto un'opposizione, ma appunto perché l'ho fatta quell'opposizione, e ho un ricordo anche abbastanza lucido e anche una riflessione sulla stessa posizione da me sostenute nel giornale, io dico che quella è stata una stagione fra le più significative della storia d'Italia e della storia della Repubblica Italiana. Quindi questa è la questione da discutere, cioè vedere questo stato appunto il ruolo di Craxi, sia come dirigente del partito, e quindi di una forza che ha avuto un ruolo straordinario nella storia italiana, sia soprattutto, questa è la mia personale opinione, come presidente di quel governo. Condivido il giudizio anche da ex oppositore fermissimo. Io scrivevo La Voce Repubblicana, la parte politica, quasi tutti i giorni contro Bettino Craxi, bombardando di corsivi, cose eccetera, che poi venivano riprese dai giornali. Ma la presenza del Consiglio di Bettino Craxi in politica economica, lo ricordo ai più giovani che non ne sanno ancora molto, anzi non ne sanno quasi nulla, non per colpa loro, la rottura sulla scala mobile, una scelta devastante che anni prima era stata fatta in convergenza tra la Confindustria di Gianni Agnelli e la parte comunista del sindacato, e che però aveva provocato effetti deleteri nell'appiattimento del ventaglio salariale, nel creare oltretutto molta più inflazione di quella che ci potessimo permettere, e con la decisione coraggiosa di Bettino Craxi di rompere questa cosa, di andare a un referendum, di far decidere gli italiani e di vincere, imboccando una strada del rafforzamento dell'inflazione e di un'economia italiana più europea. Poi la politica estera di Bettino Craxi è una politica estera che a noi all'epoca non piaceva per motivi opposti a quelli a cui non piaceva a Macaluso, perché a noi sembrava una rottura di una convenzione storica filoatlantica e appiattita sull'America, ed è proprio per questo invece che era una scelta innovativa e coraggiosa, cioè era il tentativo di portare l'Italia fuori da una terra obbligata, confine di sicurezza in cui avveniva contrasti a parole gravi, di fatto con i servizi segreti degli Stati Uniti da una parte e dell'Unione Sovietica, che sapevano perfettamente che cosa avveniva in questa terra abbastanza priva di sovranità propria, che era l'Italia. Tentativo da parte di Bettino Craxi di dire no, la politica estera la decidiamo noi nel Mediterraneo, nei confronti del terrorismo, nei confronti dell'OLP, di Arafat, di Israele, ma la decidiamo noi, non la decidete più voi. Ecco, secondo me su questo ancora oggi manca molta serenità nell'esame di quello che Bettino Craxi tentò di fare. Luca Iosi, a questa parte di... innanzitutto comincio anche con lei da questa domanda. Cosa vuol dire per lei il fatto che non si riesce a comporre un giudizio? Ma guardi, lei all'inizio ha detto con equilibrio tra stelle e serenità e oggettività. Io sinceramente sono la persona meno adatta per affrontare con queste due caratteristiche la questione, perché sono certamente partigiano e di parte, nel senso che sono, ho una visione molto distante anche da quella di una persona fortemente equilibrata che apprezzo come Macaluso, perché quando a 10 anni dalla morte, se è una questione di tattica che gli devo dire sì, partiamo dagli errori così poi portiamo a casa anche un po' di rivalutazione d'altra parte, vabbè, facciamo. Se dopo 10 anni mi devo ancora sentir dire la storia degli errori di Craxi, quando quell'uomo va in Parlamento a dire cose, a assumersi responsabilità dicendo che la politica era diventata una struttura formata su clan, allora, e in quel momento nessuno si alza della classe dirigente di allora e di quella che è rimasta ancora in circolazione oggi, allora io chiedo che cosa si vuole chiedere attraverso il medium a questo punto a Bettino Craxi rispetto ai suoi errori passati, rispetto a un riconoscimento di quello che era un drammatico sistema. E rispetto alla provocazione degli errori di Craxi, serenamente nel 2010 vi dico, noi soldi sporchi di sangue non li abbiamo mai presi per fare politica, e aver subito per 15 anni un giudizio da una parte della sinistra italiana che su soldi privi di libertà che venivano da un popolo economicamente disperato e che sottraeva burro ai propri bambini per dare finanziamenti agli oppressi compagni degli oppressi paesi consumistici come l'Italia, sinceramente vi assicuro, dopo 10 anni non ne posso più di sentire queste cose. Lo dico con rispetto rispetto alla storia di Macaluso, che è una storia diversa rispetto a quella di tanti suoi compagni, ma sinceramente capisco la sua raffinatezza rispetto all'inopportunità di chiamare Stefania Craxi figlia, e quindi a portare una tragedia shakespeariana in TV come quella, però cerchiamo di aprire il nostro cuore di verità rispetto a un sistema che c'era e la cui differenza non può essere tra chi era più bravo a nascondere a qualità dei propri finanziamenti e chi era un parvenu del sistema, come i socialisti di Craxi, un vero parvenu, una meccanica meno raffinata, meno edulcorata, meno sottile per nascondere quello che era il paradosso di Sikorsky, questo calabrone che vola, che erano i partiti, e che ha delle apparenti ali troppo piccole per volare, cioè i finanziamenti ufficiali, eppure vola. E come fa a volare? Con altri finanziamenti che tutti avevano. La differenza dei nostri è che erano finanziamenti illeciti, interni al sistema italiano, di industriali privati italiani, di sostenitori privati italiani. C'erano nella nostra democrazia forze di opposizione che vivevano su finanziamenti di un paese militare avversario al nostro. Oggi, nell'epoca in cui siamo diventati tutti kennediani, obamiani, in quel liberissimo paese che è l'America, di fronte a una condizione di questo genere esisterebbero dei reati che a noi metterebbero in ginocchio Beccaria, da noi metterebbero in ginocchio Beccaria. Questa settimana, io lo ricordo a tutti, esce con Panorama, escono ancora iniziative che provano che c'è un Craxi largamente inedito. Quanto Craxi inedito c'è in testimonianze raccolte, visive, in pagine non ancora pubblicate? Lo chiedo a Luca Iosi, perché Luca Iosi ha avuto un ruolo prezioso nel consentirci poi di avere questo materiale, di averlo pian piano editato, perché questo sarà un contributo anche a formare un giudizio su Bettino Craxi, meno parziale di come è stato in questi 10 anni. Quanto ce n'è ancora di questo Craxi inedito, Luca? Ma quelle interviste che da venerdì sarà distribuita, che poi lunedì andrà in onda sulla 7 con Ali Fedele, è un'intervista che esce da 10 giornate passate a telecamere accese e quindi con un interlocutore come sottoscritto, col quale Craxi aveva un rapporto di maggiore serenità, e quindi ne è uscito un quadro di una sterminata quantità di ore che sono state ridotte in questo documentario a 45 minuti, un quadro molto intimo e assolutamente umanamente inedito per il grande pubblico della figura di Bettino Craxi. Poi nei prossimi mesi, intorno a marzo, invece uscirà una piccola opera più completa di 70 piccole pillole da un minuto, dove verrà in qualche modo tracciata un giudizio di Craxi su appunto diverse questioni che ancora oggi si affacciano nel nostro paese. Eccoci tornati in studio, tentiamo oggi, questo lunedì 11 gennaio, insieme a ospiti, di organizzare una riflessione il più possibile, il quale mi è composta, su Bettino Craxi, però partendo da un punto di vista dichiarato, cari ascoltatori, cioè quello che noi non condividiamo molto, il giudizio, anzi non condividiamo quasi per nulla, il giudizio prevalente di questi ultimi 10 anni, il giudizio ci ha ispirato alla forca mediatica, al fatto che è un bandito brigante corrotto e non uno statista. Molte sms, ne cito uno per tutti. In questa prima mezz'ora arrivano dicendo: bah, volete titolare di una strada, smettete politico corrotto, per me va bene. Altri dicono: ma come, dimenticate il debito pubblico che si deve a Bettino Craxi. Altri ancora dicono: solo in Italia un condannato in contumacia può ancora essere ricordato 10 anni dopo come un politico. Questi sono fatti? Sì, sono fatti, quello che è successo sulle indagini e sulle condanne, certo che sono fatti. E il punto è credere che tutto questo sia avvenuto nei confronti di Bettino Craxi rispetto ad altri leader, non perché Bettino Craxi ha avuto una risposta diversa da quella degli altri leader politici, rifiutando il fatto di essere considerato l'archetipo, l'architrave della degenerazione di un sistema politico italiano che aveva una storia lunga, aveva una storia pluridecennale, che si concluse nello sbaraccamento senza precedenti da nessun altro paese avanzato per via giudiziaria di un'intera classe politica, che si concluse in quei mesi, in quegli anni, attraverso la formazione dei governi tecnici, nel calcolo di una parte politica invece di sopravvivere a tutto questo, e che ancora 15 anni dopo ci porta infatti a essere divisi su che cosa è stata la prima e la seconda repubblica. Su questo sono totalmente d'accordo con Emanuele Macaluso. Si è aggiunto tra i nostri ospiti Achille Occhetto, ex segretario del Partito Comunista, responsabile poi storico della svolta, la svolta della Bolognina, alla caduta del muro, intransigente oppositore anch'egli negli anni in cui Craxi era leader del Partito Socialista, e che poi negli anni successivi, alla luce anche di una parabola politica personale, quella di Achille Occhetto, questo secondo me va reso merito e onore, ha poi modulato di giudizi politici, su Bettino Craxi in maniera diversa a quelli durissimi che espresse quando era leader del PC. Lo dico prima di soltanto dargli la parola, ricordando che noi per primi, noi che all'epoca eravamo repubblicani di tradizione azionista, Ugo La Malfa prima di morire lasciò a noi giovani repubblicani una specie di bollo di infamia che riguardava Bettino Craxi, lo dichiarava un miserabile, dico testualmente le parole che ci pronunciava. Noi eravamo impregnati di una questione morale, che poi erano gli stessi anni in cui Berlinguer la lanciò nella vita nazionale, che viveva ogni giorno poi su Repubblica come partito, giornale partito di riferimento, un Eugenio Scalfari che accomunava il partito repubblicano della Malfa padre, che poi fu anche della Malfa figlio, e ci faceva considerare per la spregiudicatezza politica Bettino Craxi una specie di violatore di un codice morale, ma era la spregiudicatezza politica di chi chiedeva autonomia alla politica rispetto a delle categorie obbligate. Lo dico a proposito del terrorismo: tutti noi oggi abbiamo un giudizio di Bettino Craxi di fronte al rapimento delle Brigate Rosse di Aldo Moro come se fosse uno spregiudicato trattativista, mentre in quel caso quello che noi non capivamo, noi dico i repubblicani, una parte della DC, perché l'altra maggioritaria la pensava come Bettino e non riuscì a trattare suo malgrado, e soprattutto anche il Partito Comunista, che si trovava impegnato in una difficile pagina della vita nazionale perché era lì per, doveva votare un governo a cui non partecipava, ma era una grande svolta nella vita nazionale, e il governo Andreotti, e quindi fu una parte solidale nella resistenza al terrorismo, dicendo che con le Brigate Rosse non si tratta. Però l'autonomia della politica che rivendicava Bettino Craxi non era quella della resa dello Stato, era l'autonomia allo schema obbligato per cui le Brigate Rosse erano qualcosa da considerare solo in maniera armata e giudiziaria, piuttosto che come un fenomeno col quale invece bisognava intavolare dei rapporti politici, perché bisognava sottrarre l'Italia all'obbligato scontro di quest'area di sicurezza e di lotta tra est e ovest, le due frontiere di sicurezza di cui abbiamo parlato anche nella prima parte della trasmissione. Allora, Achille Occhetto, buongiorno, mi perdoni se io, per chi è in ascolto ed è giovane, devo fare un po' di sintesi, perché molta gente non sa quasi più nulla di quegli anni, onorevole Occhetto. Lo chiedo anche a lei, oltre a ringraziarla, cosa vuol dire secondo lei che a distanza di 10 anni noi non riusciamo ad avere un'idea composta su Bettino Craxi? Ma in realtà ci sono idee diverse, più che non ci sia un'idea composta. Mi sembra naturale che in politica ci siano queste idee diverse. La cosa che per me è molto strana è che si passa da un'esagerazione all'altra continuamente. O si fa l'immagine di un mostro, oppure si fa delle riabilitazioni un santo. Totalmente acritiche. Siamo arrivati persino che all'interno dei DS c'è stata quasi una riabilitazione di Craxi, considerato moderno, avanzato, contro Berlinguer, considerato un bacchettone con una politica antica. In realtà le cose non stanno esattamente così. Per esempio Berlinguer, su alcune questioni, come la questione morale, che badate era un modo per sottrarre ai giudici il problema, perché chiedeva una autoriforma della politica, Berlinguer non ha mai pensato di rivolgersi ai giudici per affrontare problemi politici, o la visione della necessità di un cambiamento di modello di sviluppo in vista della possibilità di far scomparire di fronte al problema ecologico il pianeta, sono questioni estremamente moderne di Berlinguer. In Craxi io ho visto elementi di luce e di ombra. L'elemento di luce è stata la prima fase, purtroppo molto breve, quando ha tentato di uscire dal consociativismo di CPC, che poteva soffocare effettivamente la politica italiana, impostando il tema di un'alternativa, e in quel momento il Partito Comunista non seppe cogliere questa occasione. Poi ha avuto il torto di chiudersi in un consociativismo fortificato, ancora più ristretto, quello del CAF, e di lasciare sul terreno dei fatti che lei ha ricordato, che sono fatti, non sono diciamo anatemi politici. Il periodo del governo del CAF e del governo di Craxi è il periodo della maggiore bancarotta dello Stato italiano, il momento in cui in tutta Europa, compresa l'Italia, c'era uno sviluppo economico, e dall'altro lato ci ha lasciato sul terreno il germe veramente grave del conflitto tra poteri dello Stato, in modo particolare tra il potere politico e il potere giudiziario, e credo che questi non siano dei lasciti sul piano dell'immagine dello statista veramente importante. Onorevole Occhetto, nella sua esperienza, all'epoca lei non era ancora alla segreteria ovviamente del partito, ma comunque faceva parte della leadership nazionale, tra gli ultimi anni 70, ricordiamo che Bettino Craxi assume la leadership di un PSI dalle prospettive elettorali molto periclitanti, insomma 75-76 la prospettiva sembra quella di un partito comunista fortissimo, ricordiamo che alle regionali era avvenuto oramai la presa della DC dal punto di vista dell'avvicinamento delle percentuali elettorali. Ma detto tutto questo, in quegli anni decisivi, sono gli anni in cui matura poi la solidarietà nazionale, la risposta cioè condivisa delle due maggiori forze popolari italiane, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, sia pure con distinte responsabilità di governo di fronte ai mali dell'economia e del terrorismo, che era l'emergenza molto forte. Quanto quella pagina, che lei dice è stata decisiva nel non fare capire il meglio di Craxi, lo definisce, poi in qualche maniera secondo lei induce Craxi a una diffidenza così radicale da costringerlo al consociativismo, come dice lei, cioè ad abbracciare poi lo schema del preambolo, l'alternanza solo con la DC, e a non guardare per tanti anni a voi, all'epoca al Partito Comunista, come un interlocutore degno di una attenzione e di sviluppi politici condivisi anche nella famiglia europea? Pronto? Sì. Cioè, quanto ha contato quella prospettiva della fine degli anni 70 nell'allargare tra voi la totale incomprensibilità per tutto un decennio ancora di più? Beh, certo, ha creato un elemento di incomprensione. Il fatto, per esempio, che al congresso di Torino il Partito Comunista non appoggiò l'ipotesi di un'alternativa, e questo, l'ho già detto, fu un errore. Però gli errori successivi di volte a creare un solco a sinistra da parte di Craxi non possono essere cancellati praticamente. Cioè, lei ha ricordato come Craxi ha avuto la capacità, e indubbiamente c'era, di dialogare anche con delle frange estremiste, di porsi il problema politico dell'estremismo, ma perché non ha saputo dialogare con il Partito Comunista? Perché quando c'è stata la svolta, un momento importantissimo, si cambia il più grande partito comunista dell'Occidente, che chiede di entrare nell'Internazionale Socialista, che dichiara fallito il comunismo, invece di aprire una fase di ricomposizione paritaria delle forze di sinistra, chiede al Partito Comunista di entrare sotto le forche caudine dell'Unità Socialista, cosa che avrebbe impedito la svolta stessa di svilupparsi. C'è stato in quel momento un elemento di eccessiva chiusura e anche di cecità rispetto alle possibilità che si aprivano in quella fase politica. Dove naturalmente il giudizio, che era pure comprensibile, cioè che la caduta del muro riguardasse i comunisti innanzitutto più che i socialisti, forse sottovalutava, dice lei, che in Italia una prospettiva diversa, che tenesse conto della peculiarità storica italiana dell'evoluzione del Partito Comunista, poteva consegnare una prospettiva di maggior successo, insieme abbracciando quello che lei dice essere stato un errore di Craxi non aver agevolato, se capisco bene. Certo, sarebbe stata una storia diversa anche per la Seconda Repubblica se questo fosse avvenuto. Io ricordo ancora come, ripeto, siamo andati molto vicini a che Craxi mollasse Andreotti, nel cui settimo governo pure era rimasto, e che con elezioni anticipate che forse sarebbero state insieme proprio alla Sinistra Unita e a Craxi come ipotetico Presidente del Consiglio, la mia opinione è che se quelle elezioni anticipate si fossero tenute, io non credo che Tangentopoli avrebbe avuto la nascita, la sua storia, il suo sviluppo e le sue conseguenze che abbiamo oggi. Torniamo in studio, ci stiamo occupando del decennale della morte di Bettino Craxi, delle polemiche che ancora oggi infervorano la politica italiana su questo, della difficoltà di un giudizio condiviso, certo, però un giudizio condiviso che significa anche un giudizio sereno sui diversi punti di vista, ci ha ricordato Macaluso, che permangono sulla parabola di Bettino Craxi, e i giudizi, ci ha ricordato Achille Occhetto, anche su ciò che poi Bettino Craxi pose come argomento di divisione più che di convergenza nei confronti del Partito Comunista e della sinistra italiana nei suoi anni di leadership. Paolo Pillitteri, buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie, ricordo a chi non se lo ricordasse che Paolo Pillitteri è stato sindaco di Milano, oltre che cognato di Bettino. Paolo Pillitteri è stato a sua volta interessato all'indagine eccetera eccetera, fino a poi alla riabilitazione del Tribunale di Milano nel 2007. Chiedo a Paolo Pillitteri, quando ha letto poche settimane fa l'intervista di Fassino, in cui titolo intervista alla stampa, il cui titolo è stato questo: Bettino fu capro espiatorio, e in cui l'ex segretario dei DS dice: in Craxi ci sono i problemi di Berlusconi, resto un uomo di sinistra. Risposta di Fassino: non ci sono dubbi, Craxi è stato politico della sinistra nel scolco della storia del socialismo riformista eccetera eccetera eccetera. E continuo a pensare che dipingerlo come un criminale sia una caricatura sciocca e inaccettabile, così come descriverlo come la vittima di una congiura. Questo è il giudizio di Fassino. Pillitteri, di fronte a questi giudizi, come la pensi a tanti anni di distanza? Ma Bettino Craxi non soltanto fu scelto come capo espiatorio in quella vicenda cosiddetta mani pulite, in cui la giustizia apparve non soltanto a lui ma a molti, politicizzata, mirata, ma fu un capro espiatorio scelto perché era un capro politico, perché sapevano perfettamente che colpendo lui e soprattutto lui si affondava l'intero sistema. Craxi era diventato il perno in cui ruotava il sistema nel bene e nel male. Questa però del capro espiatorio è una cosa che ha avuto su di lui un influsso, un'influenza notevolissima, tanto più che quando avvenne per esempio la vicenda terribile del Rafael con le monetine ed io ero presente, io capii lì che cosa significava la parola linciaggio, l'odio, ma lui anche capì che cosa significava essere diventati il bersaglio prediletto, il capro espiatorio appunto. È lì che probabilmente cominciò a capire che la sua libertà equivaleva alla sua vita e che non poteva, legittimando un'azione giudiziaria, non poteva più salvarsi in Italia, avrebbe corso dei rischi mortali. Il fatto è però ancora più complicato o forse anche più semplice. Bettino Craxi era il capro espiatorio cui si voleva far pagare che cosa? Ciò che negli anni Ottanta era stata la fine della storia per i comunisti. Craxi aveva sempre puntato su un fatto: che il comunismo non era eterno, che bisognava aiutare i loro perseguitati, che bisognava dare una mano a Solidarnosc, ad Havel, a Pelikan, ai cecoslovacchi, che alla fine era una tigre di carta il comunismo, che sarebbe prima o poi crollato, e questa cosa si era avverata. Ora questo non gli fu mai perdonato a lui, perché? Perché sono appunto quelle cose sulle quali a un politica profetico ma anche disarmato, appena si può gliela si fa pagare. Io credo che ci siano tanti fattori intorno al giudizio, al grumi di giudizio e di odi che allora si formarono su Bettino. C'è anche questo, e adesso che le cose sta facendo la sua opera, che la polvere si sta scendendo e che il suo pensiero e quello che ha fatto viene a essere più semplice, ecco che si capiscono tante cose. E soprattutto, prima vi ho ascoltato mentre parlavate del caso Moro, soprattutto si riesce a capire come e perché la politica di Craxi abbia un'impennata proprio dopo il caso Moro, quando lui scelse la via della trattativa, lui chiamava dall'iniziativa umanitaria. L'iniziativa umanitaria, sì. E i comunisti fecero il gravissimo errore non soltanto di lasciar morire colui il quale incarnava la politica morotea dei comunisti nella maggioranza, ma fecero il grandissimo errore di lì a un anno di lasciar perdere, di far cadere l'unica vera forte politica che Berlinguer aveva realizzato dopo quella di Togliatti, cioè il compromesso storico. Finito il compromesso, morto Moro, finito il compromesso storico per colpa dei comunisti, ecco che lo scettro della guida della politica finiva nelle mani di Craxi. Quello è stato l'errore più clamoroso che secondo me i comunisti hanno potuto fare. Da lì inizia un'altra storia, inizia un'altra Italia, cioè l'Italia degli anni Ottanta, che sono segnati dalla presenza di Craxi e dal suo governo, dalle sue innovazioni, naturalmente con gli errori, le luci, le ombre. Che sempre ci sono in politica. Certo, una domanda per Macaluso, una domanda per Iosi. Domanda per Macaluso scomoda, ma mi interessa davvero la sua opinione. La stragrande maggioranza dice l'errore di Craxi rispetto a quello di Andreotti, per esempio, è stato quello di difendersi dai processi, non nei processi. La mia domanda invece a lei, che è un osservatore che io stimo molto, di parte politica, ma insomma con una composizione del giudizio, torno a questa idea del giudizio composto. La mia opinione è questa, che Bettino Craxi non avrebbe avuto le forze politiche per difendersi nei processi. Sarebbe stato sbattuto in carcere e basta, e questo sarebbe stato il giudizio su di lui. Lo dico a chi è a casa continua a bombardarmi in questo momento dicendo trasmissione a senso unico eccetera eccetera. No, non è così. Faccio l'esempio paradossale. Silvio Berlusconi, che io non accomuno a Bettino Craxi, ognuno ha una storia politica diversa ed è diverso il sistema politico italiano. Silvio Berlusconi, una forza smisurata, cioè deve vincere un'elezione un anno sì e un anno no, per difendersi dai processi, perché è evidente che di questo stiamo parlando. Non hanno le stesse ragioni, non è la stessa storia, non è la stessa persona, però c'ha una forza smisurata. Bettino Craxi, quando arriva a Tangentopoli, la forza politica per difendersi dai processi non ce l'aveva. Alla luce di questo le chiedo, avrebbe dovuto farsi sbattere in carcere e lì rimanere, secondo lei? Ancora oggi la pensa così, onorevole Macaluso? No, io innanzitutto voglio rilevare che nemmeno Andreotti aveva. Andreotti è stato incriminato nel 93. Nel 93 la decisione su Andreotti è stata presa e non c'è stato. Nel panorama politico a dire che era un errore quel processo sono stati in pochi, io sì, e qualche altro, perché io ho fatto un libro addirittura sul processo Andreotti, ma anche quando fu la questione di Craxi, io voglio ricordare a tanti socialisti che ora gridano che nessuno, che pochissimi, io sono stato uno di questi militari, ma molti di questi che sono ministri eccetera tacquero tutti. Vadano a rileggere i giornali di quel periodo, chi è che parlò criticando anche la magistratura sul giorno furono pochi: Emanuele Macaluso, Napoleone Colaianni e qualche altro. Non certo da parte del partito ufficiale. Quindi oggi io dico che secondo me, così come era debole Andreotti, era debole certamente Craxi, la battaglia politica si sarebbe potuta fare con più forza se Craxi affrontava i processi che Craxi che ha lasciato l'Italia. Questa è ancora oggi la mia opinione, perché lì c'era da fare una battaglia politica oltre che giudiziaria, e la battaglia politica fu in parte perduta appunto perché c'è stata la campagna sulla latitanza, come è stata ancora oggi dicono. Se c'era la battaglia politica con Craxi ai processi, io penso che la cosa sarebbe stata molto, ma molto, ma molto diversa, per creare proprio un'opinione pubblica, per fare capire che c'era una questione politica in tutta questa questione giudiziaria, che non poteva essere inglobata la questione politica nella questione giudiziaria. E quando fu fatta il decreto del governo Amato, del ministro di Grazia e Giustizia, in cui si diceva appunto che bisognava separare i finanziamenti dati per la politica dai finanziamenti personali e dagli arricchimenti personali, quella era la linea giusta. Ma lei si ricorda cosa avvenne? Che purtroppo fu avversata non solo da Borrelli e da quelli che fecero quella dichiarazione. Purtroppo fu avversata anche dalle forze politiche, ma c'era una strada per anche fare dal capo dello Stato, una battaglia politica su questo. Ecco, su questo. La fermo su questo. Lei dice che c'era, ricorda proprio con Amato, uno di quelli che non solo tacque, ma insomma scriveva da una parte una cosa e poi ne faceva un'altra rispetto a Bettino Craxi. Ma proprio quello che lei ricorda, cioè resistere, resistere, resistere, per la prima volta i magistrati che dicono a provvedimenti di un governo questa roba non si fa perché altrimenti. Io chiedo a Iosi, ma c'era quella prospettiva? Era perseguibile, era possibile per Bettino Craxi, con cui tu parlavi ogni giorno, con cui hai continuato a parlare, eccetera, eccetera, la possibilità di battersi politicamente? Prego, mi lasci bruciare il mio tempo per rispondere a cose non vere, così almeno ne facciamo dal campo. Le cose non vere sono, la prima, mettere sullo stesso piano Andreotti e Craxi rispetto alla vicenda dei processi è una piccola panzana, in quanto Andreotti era senatore a vita e quindi godeva dell'immunità, primo. E quindi era una condizione diversa rispetto al processo. La seconda, l'onorevole Occhetto ha un vantaggio, diciamo non accessorio, che è quello di essere vivo rispetto a Craxi, e che era una delle cose che Craxi cercava di fare, cioè di rimanere in vita, perché noi saremo dei miscredenti, saremo degli immanenti, però pensiamo che si pensi meglio da vivi. E visto che in quegli anni ricevevamo Craxi, sottoscritto, i suoi avvocati, misteriosissime perquisizioni camuffate da furti, cadeau che si possono definire nelle migliori dei termini minacce, vige una regola che è quella di Salvemini, che quando ti accusano di aver stuprato la Madonnina non ti rimane che l'esilio. Allora, io l'ultima cosa che volevo togliere dal campo è la negna sulle vicende anche dei disonori economici di Craxi rispetto alla sua gestione governativa. Allora, visto che Craxi è quello che abbatte l'inflazione facendola passare dalle due cifre a una cifra, facendo passare il nostro paese dal 17° posto al mondo al 5°, e tutti dicono ma c'era la situazione internazionale, sì, che però non ha funzionato per quelli che stavano tra il 16° e il 7°. Infatti. E confrontandosi con tre metastasi che erano terrorismo, inflazione e debito, e decisero di scaricare la risoluzione del paese sulla terza, sul debito, per affrontare terrorismo e inflazione, sapendo che il nostro paese aveva il 90% del debito contratto con i suoi cittadini, a differenza ad esempio degli Stati Uniti. Per chiudere questo mio intervento, regalo ai miei interlocutori questa frase, di cui vi dirò poi alla fine l'estensore. L'inflazione è discesa dal 16 al 4% e questo è stato il risultato più apprezzabile e più vistoso dei 4 anni che ci stanno alle spalle. Il livello della spesa pubblica non solo non è aumentato, ma anzi è lievemente diminuito. Nel frattempo la pressione fiscale è rimasta complessivamente invariata. Il favorevole andamento dei prezzi internazionali ha liberato risorse ingenti che sono state in discreta parte utilizzate per non far peggiorare i conti dello Stato. E chi è l'autore? Questo è il merito che va riconosciuto al governo e per questo merita lode. È pur vero tuttavia che con quelle risorse si sarebbe potuto fare molto di più per il risanamento della finanza pubblica. Se siete pronti, siamo nel primo marzo del 1987, si tratta del dottor Eugenio Scalfari, suppongo a questo punto un omonimo del fondatore di Va bene, io devo interrompere Luca Iosi e porre termine a questa trasmissione di oggi, in cui avete sentito sicuramente parlare di Bettino Craxi in una maniera che non è quella ordinaria, e me ne assumo, come si dice, tutte le responsabilità. Io ringrazio i nostri ospiti Luca Iosi, Emanuele Macaluso, Paolo Pelliteri e Achille Occhetto. Ringrazio voi ascoltatori che oggi non abbiamo mandato in onda, Ivo Davanto, Valuciano da Torino, Edoardo da Parma, soprattutto che hanno aspettato per poter intervenire, non c'è stato tempo. L'appuntamento a domani, grazie a Filippo Greggi in regia, Alessandro Marco Tunni in redazione, la linea generale.